Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuovo naufragio nel canale di Sicilia, 10 vittime, molte donne. Nei primi 6 mesi dell'anno sbarchi in linea col 2015, ma 25.000 tra profughi e immigrati accolti in più. Elezioni non prima del 2020, dice il ministro dell'interno britannico Theresa May, che si candida al leader dei Tories. Allarme per gli episodi di razzismo dopo il voto per la Brexit. Giorno di insediamento per le giunte di Sala, Milano e Appendino a Torino. Sotto la mole polemiche su un assessore e Roma ancora in alto mare. Scontro sul capo di gabinetto scelto dalla Raggi. Quinto mese di fila di deflazione secondo i dati Istat. Scende la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, sale il potere d'acquisto delle famiglie ma anche la propensione al risparmio. Scontri tra comunità cinese e forze dell'ordine a Sesto Fiorentino. Poi torna la calma, tutto è partito dai controlli della polizia nei capannoni. Unicredit sceglie il nuovo amministratore delegato, si tratta di Jean-Pierre Moustier, che era stato a capo del corporate e ora torna in Italia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale solitamente vi diamo anticipazioni, ma oggi non siamo riusciti per una serie di problemi tecnici, domani recupereremo senza dubbio. Apriamo con la nuova strage nel canale di Sicilia. Negli stessi istanti in cui veniva recuperato questa mattina al porto di Augusta il relitto del peschereccio che si è inabissato 14 mesi fa con 700 persone intrappolate a bordo, nel canale di Sicilia altri morti. 10 donne sono annegate nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche. Sull'imbarcazione si trovavano altre 107 persone, tutti tratti in salvo dalla Guardia Costiera. Anche oggi continuano gli sbarchi. 570 sono arrivati a Trapani e così a metà del 2016 è tempo di fare un bilancio. Sono 69.884 i migranti sbarcati nel nostro paese nei primi 6 mesi dell'anno. Praticamente lo stesso numero di un anno fa. Chiaramente però di anno in anno il numero delle persone accolte sul territorio aumenta perché gli ultimi sbarcati si vanno ad aggiungere a chi è da mesi o da anni nei centri di accoglienza. Sono quindi 126.000 gli stranieri presenti nei centri italiani, in netto aumento rispetto ai 103.000 di un anno fa. La distribuzione geografica vede i migranti accolti principalmente in Lombardia e in Sicilia. La stragrande maggioranza di chi arriva proviene dal Corno d'Africa oppure dall'Africa occidentale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle cronache dalla Brexit. I tempi, quantomeno quelli delle elezioni, sembrano allungarsi ulteriormente. Abbiamo in linea Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, in realtà oggi è una giornata di grandi colpi di scena, sì. Perché Boris Johnson ha appena annunciato che non si candiderà alla guida del Partito Conservatore e quindi alla guida del Paese. Una cosa del tutto assolutamente inattesa che è maturata al termine di una mattinata appunto segnata da colpi di scena e coltellate alla schiena, perché questa mattina Michael Gove, il ministro della giustizia e frontrunner insieme a Boris Johnson nella campagna di Leave, aveva inaspettatamente annunciato invece la sua volontà di candidarsi e questo ha evidentemente piazzato Boris Johnson, che in un appassionato discorso al suo pubblico a favore di Leave e per le ragioni che hanno sostenuto Brexit, ha alla fine concluso che lui non si candiderà, lasciando, presumiamo, la piazza appunto a Michael Gove o a Theresa May, che è la candidata invece, l'attuale ministro degli interni, che era nel fronte Remain, ma che ha sempre avuto una posizione molto molto moderata. Quindi sarà un testa a testa fra Michael Gove e Theresa May per la leadership del partito e del paese, ma quello che è sconcertante e inatteso è l'uscita di scena di Boris Johnson. E ti ringrazio, grazie a Leonardo Maisano per questo racconto, anche per averci dato una notizia appunto appena battuta dalle agenzie. Intanto c'è allarme per gli episodi di razzismo che si sono moltiplicati subito dopo il voto. Insulti, scritte ingiuriose, minacce, un'ondata di razzismo sta attraversando la Gran Bretagna del dopo Brexit e secondo il National Police Chief Council, il Consiglio Nazionale dei Capi di Polizia, tra giovedì e domenica c'è stato un incremento del 57% dei casi con 85 denunce. Il caso più eclatante è il vandalismo contro l'ufficio culturale polacco ad Hammersmith, zona ovest di Londra, dove sui muri sono comparse scritte pesantemente ingiuriose. La comunità polacca, la più numerosa a Londra, è preoccupata mentre il governo di Varsavia ha chiesto un intervento delle autorità. Martedì invece su un autobus a Manchester tre ragazzi avevano insultato pesantemente un uomo dalla pelle scura, un professore universitario che vive nel Regno Unito da 18 anni. Were you 18? 19? No. I've been here longer than you have. Are extremely ignorant and not very intelligent. Tra le centinaia di storie anche quella di un'attrice originaria di Trinidad alla quale un gruppo di inglesi ha urlato "Rendiamo la Gran Bretagna di nuovo bianca", di bambini insultati dai compagni di scuola. E intanto il premier David Cameron promette intransigenza e ricorda a tutti che nel Regno Unito la tolleranza è sempre stata e sarà un valore, prima e dopo l'Unione Europea. Alessandra Schepi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Brexit, l'estate dell'incertezza. Banche, pensioni, casa, risparmi, di Brexit continuiamo a parlare, ci si interroga su non solo sulla reazione dei mercati anche successiva, un po' più a medio termine, su quello che succederà all'economia reale, tanto della Gran Bretagna quanto dell'Unione Europea. Proseguiamo dunque il nostro appuntamento, l'appuntamento del Sole 24 Ore con il suo speciale L'estate dell'incertezza, ogni giorno, iniziato ieri, e un appuntamento anche con Radio 24 tutte le mattine nei giornali radio delle 7 e delle 8 e qua in effetto giorno. Oggi parliamo di ricerche, lo facciamo con Marina Castellaneta, collaboratrice del Sole 24 Ore, che oggi firma un pezzo proprio su questo nelle pagine dedicate alla Brexit sul Sole 24 Ore. Buongiorno Marina e benvenuta. Buongiorno e grazie molte per l'invito. I contraccolpi sulla ricerca e l'innovazione, soprattutto in Gran Bretagna, rischiano di essere molto gravi. Sì, naturalmente sì, perché la Gran Bretagna, a differenza di altri settori, sul piano della ricerca, dell'università, ha sempre aderito totalmente all'Unione Europea, ha corrisposto molti fondi ed è stata beneficiaria di molti fondi, questo soprattutto per quanto riguarda i progetti altamente innovativi. Noi pensiamo che i cosiddetti progetti ERC, cioè quei progetti di altissima qualità e innovazione della ricerca e che vengono assegnati ogni anno, su 349 progetti assegnati nel 2015, ben 62 sono andati al Regno Unito, e questo naturalmente per le università inglesi sono delle entrate preziosissime, non soltanto come entrate in termini economici, ma anche per le innovazioni e le ricerche sempre più qualificate che vengono fatte. È ovvio che quando si perfezionerà l'uscita dall'Unione Europea, questo segnerà una perdita molto grande per il Regno Unito, e quindi è probabile che trovino in qualche modo a fare degli accordi, insomma, su questi punti. Certo, dei fondi saranno a questo punto più disponibili per le altre università di altri stati membri, però naturalmente il Regno Unito è sempre una meta molto appetibile anche per cittadini extra UE che possono però utilizzare i fondi UE andando in una struttura universitaria inglese. Ti ringrazio, grazie a Marina Castellaneta, collaboratrice del Sole 24 Ore, e oggi sullo speciale Brexit del Sole 24 Ore troverete anche degli approfondimenti per quanto riguarda le borse e le valute. Di oggi i dati sui redditi e la pressione fiscale. Per il quinto mese consecutivo l'Italia resta in deflazione. A giugno, infatti, i dati provvisori dell'Istat mostrano un aumento dei prezzi al consumo dello 0,1% su base mensile, ma anche una diminuzione su base annua pari allo 0,4%, un andamento determinato soprattutto dal calo dei prezzi dei prodotti energetici, spiega l'Istituto di Statistica. In controtendenza sono invece i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che dopo quattro mesi tornano a salire dello 0,1%. Conseguenza del calo generale dei prezzi è l'aumento del potere di acquisto da parte delle famiglie, che è cresciuto del 2,3% nel primo trimestre dell'anno, registrando l'aumento più ampio dal secondo trimestre del 2007, prima cioè dell'inizio della crisi. A risalire è anche la propensione al risparmio delle famiglie. Sempre nel primo trimestre 2016 l'Istat registra poi un lieve calo della pressione fiscale, scesa al 38,9%, e un miglioramento del rapporto rapporto fra deficit e PIL, che si porta invece al 4,7%, segnando il risultato migliore dal 2000. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le cronache dal dopo attentato ad Istanbul. Due giorni dopo lo spaventoso attacco all'aeroporto Ataturk, terzo scalo d'Europa dal quale lo scorso anno sono transitati oltre 61 milioni di passeggeri, la Turchia prova a rialzarsi. Istanbul è una città ferita sulla quale cade oggi una pioggia battente. Negli occhi di tutti ci sono ancora le immagini dell'attentato di martedì sera, ma oggi è anche il giorno della reazione del paese della mezzaluna contro gli uomini dello Stato Islamico che si nascondono sul suo territorio. Almeno 20 persone sono già state arrestate ad Istanbul e a Izmir. Ad Istanbul sono state perquisite 16 abitazioni nei distretti di Pendik e Sultan Beyli nella parte asiatica e a Başakşehir in quella europea. Due uomini sospettati di essere miliziani dell'ISIS sono stati uccisi mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine con la Siria. Anche se manca ancora una rivendicazione dell'attacco all'aeroporto, tutti i sospetti sono concentrati sugli uomini del califfo. Tra le vittime dell'attentato, che intanto sono state identificate, si scopre nel frattempo che c'è anche un medico tunisino venuto in Turchia per cercare di riportare a casa il figlio incarcerato come militante dell'ISIS. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E siamo all'Italia con gli scontri tra la comunità cinese e le forze dell'ordine a Sesto Fiorentino. Due cinesi arrestati con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale per i disordini di ieri a Sesto Fiorentino, con tanto di fitto lancio di pietre e bottiglie e conseguente carica delle forze dell'ordine che ha messo fine alla manifestazione di protesta alla quale hanno partecipato alcune centinaia di cittadini cinesi. Tutto sarebbe iniziato in seguito a un controllo dell'ASL in un'azienda gestita da orientali nell'area industriale del comune di Sesto Fiorentino, al confine col capoluogo toscano, zona ad alta densità di laboratori e piccole aziende cinesi. Arrestato il titolare dell'azienda che avrebbe tentato di impedire l'ispezione e di un altro connazionale che dopo i primi disordini nel capannone avrebbe cercato di impedire l'uscita di mezze ambulanze bloccando il cancello. Proseguono intanto gli accertamenti anche da parte della Digos per ricostruire la dinamica dei disordini. Contusi in modo lieve due poliziotti e un carabiniere, ma è la prima volta che si registra un fatto del genere nella zona tra Firenze e Prato, dove da anni si è insediata una delle più popolose comunità di cittadini cinesi in Italia. Il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Credo che denoti un grosso malessere c'è nella comunità cinese, però indubbiamente noi dobbiamo essere capaci a tenere insieme la legalità e la tutela dei luoghi del lavoro, della sicurezza e del rispetto delle regole, insieme al dialogo con le realtà produttive cinesi e con la comunità cinese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra le difficoltà di Roma e Torino e Milano che partono oggi, si insediano almeno in queste ultime due città le nuove giunte, appunto Roma ha ancora qualche problema. Ogni mia energia sarà spesa per Torino. A tutti noi un augurio di buon lavoro. Grazie. È arrivata a piedi Chiara Appendino, neosindaco pentastellato di Torino, in comune per la cerimonia di insediamento. Il primo cittadino che ha battuto Piero Fassino cita Adriano Olivetti e spiega che alle 14 comunicherà tutti i nomi della giunta. Ancora non sono noti gli assessori a trasporti e sicurezza. Anche a Roma il nuovo sindaco del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, è ancora alle prese con la squadra di governo, che sarà annunciata il 7 luglio, quando si riunirà per la prima volta il Consiglio Comunale. E non mancano le polemiche sulle prime nomine. Raffaele Marra, già in Campidoglio con il sindaco di centrodestra Gianni Alemanno, è stato designato vice capo di gabinetto. Ora capiremo se è stata una scelta ponderata, ha detto la pentastellata Roberta Lombardi, che ha affiancato Raggi nella campagna elettorale. Ci sarà un approfondimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Giuseppe Sala ha scelto il quartiere che più lo ha contestato per presentare la sua nuova giunta. Ad accoglierlo davanti alla casetta verde di via Odazio, la protesta del comitato abitanti Giammellino Lorenteggio. Ci volete in periferia, ma siamo il centro della Milano che lotta, lo slogan scandito dai manifestanti. La protesta, sebbene pacifica, è stata comunque contenuta da un cordone di protezione formato dalla polizia in tenuta antisommossa. Pomo della discordia, gli sgomberi, gli sfratti e i pignoramenti eseguiti nelle case popolari. Secondo Sala, la presentazione della nuova giunta al Giambellino è il primo segnale di ciò che la nuova amministrazione di Milano intende fare per le periferie. Di parere diverso il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ritiene il tutto una sceneggiata messa in atto per riparare agli errori commessi dalla giunta Pisapia. Giuseppe Luongo, Radio 24, e Sole 24 Ore. Siamo agli europei di calcio con il nostro Dario Ricci. Si avvicina questo Germania-Italia. Dario, ciao. Sì, hai proprio ragione Simone, siamo qua a Montpellier, oggi altra giornata di lavoro per gli azzurri, e allenamento a porte chiuse sotto la pioggia, almeno quella che sta accadendo ora qui a Montpellier. Fra poco alle 14.30 la conferenza stampa usuale, ma insomma ci attendiamo notizie più certe soprattutto sulle condizioni di Daniele De Rossi, anche se va detto al 99% non sarà della sfida con la Germania. Come ieri ha detto il professor Castellacci, sta facendo di tutto per recuperarlo, ma di fatto anche il fatto che non si stia allenando con il resto del gruppo per la botta all'anca ormai famigerata che lo ha chiamato fuori dalla partita con la Spagna è indicativo del fatto che le condizioni del romanista siano davvero difficili e il tempo soprattutto sia davvero poco, perché sabato ormai sta per arrivare alle 21 la sfida con i campioni del mondo a Bordeaux. Per il resto direi ieri gli azzurri si sono goduti una mezza giornata di riposo tra autografi, aperitivi, spiaggia al mare, quindi il clima è più che buono all'interno del gruppo e forse sì. L'arma può essere l'arma in più. Sì, tra l'altro Dario, dalle voci che ho sentito e che abbiamo trasmesso anche stamattina nel tuo servizio, li ho sentiti belli carichi comunque nonostante gli acciacchi. Ma direi proprio di sì, direi che adesso si è creato un clima quasi, permettimi l'aggettivo un po' enfatico, messianico all'interno del gruppo, per cui Conte è il condottiero e i 23, perché anche gli infortunati e lo squalificato Thiago Motta fanno parte chiaramente sempre di questa sfida e sempre di questa avventura, sono disposti a dar tutto per il loro condottiero e per la maglia azzurra. Ieri l'ha detto chiaramente Florenzi ad una specifica domanda in conferenza stampa: sono calciatori tifosi della nazionale italiana, sono diventati, perché sentono, hanno riscoperto questa appartenenza alla maglia azzurra, quindi questa veramente può essere, questa determinazione può essere un'arma in più. Speriamo, facciamo gli scongiuri del caso, ma speriamo anche vincente. I tedeschi qualche sospiro ogni volta che ci incrociano lo provano, e quindi perché no anche questa volta. Speriamo. Grazie dunque Dario Ricci, nostro inviato in Francia per gli europei. Adesso c'è il traffico e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. I punti sulla mappa che metteremo oggi saranno innanzitutto Torino, dove c'è una vicenda che sta scuotendo in parte le coscienze, almeno di chi si è interessato a questi fatti. Una donna per la quale il tribunale ha deciso che non può adottare perché ha un carcinoma al seno. E l'altra vicenda è di un ragazzino, una altro, questa volta in provincia di Brescia, che è stato investito da un treno. Perché? Perché stavano giocando sui binari per fare gli spavaldi e per farsi delle foto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del nuovo naufragio nel canale di Sicilia, abbiamo parlato della Brexit, del giorno di insediamento per le giunte di Sala a Milano e Appendino a Torino e delle difficoltà per la Raggi di creare, abbiamo parlato dei dati arrivati oggi dall'Istat su deflazione e potere d'acquisto delle famiglie, e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il primo punto che mettiamo sulla nostra mappa, che poi trovate anche sul sito www.radio24.it, è Torino, per una vicenda che è stata raccontata inizialmente dalla stampa. Oggi ci tornano un po' tutti i quotidiani ed è una vicenda che sicuramente fa discutere, insomma non faccio mistero che stamattina anche in riunione, quando ne abbiamo discusso con i colleghi, è un tema sul quale ci siamo divisi. La vicenda è questa: una donna che chiede un'adozione, una donna di 42 anni, si chiama Bianca, ha un carcinoma mammario, ha la terza recidiva e i giudici decidono che non può adottare, non può adottare un bambino proprio perché ha questa malattia. Nonostante la donna ovviamente abbia un marito che in realtà è in ottime condizioni di salute, ci siano due famiglie alle spalle che sono disposte eventualmente, nell'ipotesi più tragica, a farsi carico di tutto questo. Noemi Penna è una giornalista della Stampa ed è in linea con noi. Noemi, buongiorno. Benvenuta, ciao. Tu tra l'altro hai intervistato questa donna, hai intervistato Bianca, sì, no? L'ho incontrata personalmente e mi ha raccontato tutta la sua storia e anch'io come voi sono rimasta allibita, in quanto tutto dietro questa vicenda c'è un grandissimo paradosso, ovvero quello che Bianca è considerata troppo malata per essere madre, ma troppo poco malata per ottenere i permessi di malattia della legge 104, che è quella che garantisce l'INPS, ovvero quei 3 giorni che permettono, di permessi retribuiti che ti permettono di andare a fare le visite mediche. Quindi questo paradosso ci ha molto colpito, noi anche noi ci abbiamo un po' riflettuto su come parlare e affrontare questo discorso. Lei è mossa assolutamente dall'amore, lei vorrebbe tantissimo essere madre, purtroppo non può esserlo proprio a causa di questo tumore che l'ha resa sterile. Certo. Quindi anche questo argomento, lei, la sua battaglia si basa proprio su questo, dice: se il tumore mi avesse colpito da un'altra parte, io oggi sarei una madre. E nessun assistente sociale sarebbe venuto a togliermi un bambino. Perché allora oggi non posso adottare? Perché non posso avere questo diritto? E certo, questo è il ragionamento che fa lei. Dall'altra parte, appunto, di questo si discuteva, no? I giudici dicono, il rischio è di dare un bambino ad una madre che sostanzialmente è destinato, potrebbe essere destinato, e speriamo sinceramente di no, per la signora Bianca, alla quale facciamo tutti gli auguri di pronta guarigione, potrebbe rischiare di trovarsi orfano. Sì, il problema dietro questa vicenda è che non c'è una legge chiara, ovvero c'è l'usanza in la maggior parte dei tribunali dei minori di attuare un lasso di tempo di 5 anni, che vanno dal momento della guarigione, come tempo limite per rendere idonea o meno una coppia ad adottare un bambino. Però questi 5 anni non sono scritti da nessuna parte, poi anche lei dice, anche il suo avvocato stesso, 5 anni da cosa? Dal primo esame pulito? Da quando ufficialmente mi dicono che sono guarita? E poi ogni malattia è completamente diversa, perché aspettare 5 anni ad esempio per un carcinoma o un tumore osseo, che ha una decorrenza logicamente molto diversa. Certo, però da quel che ho capito, appunto, come ci dicevi, è invalsa questa prassi giuridica, perché in realtà la legge da questo punto di vista non prevede nulla. No, esatto, non è una prassi adottata negli anni dai tribunali dei minori, che hanno individuato questi 5 anni come un po' il limite da superare per ottenere il nulla osta. Però proprio per questo Bianca ha un grandissimo rimorso, ovvero quello di non aver mentito, proprio lei dice così studiatamente, sì, non aver mentito al medico, in quanto quando lei ha fatto la visita legale per l'adozione, lei stava bene, non aveva ancora avuto l'ultima recidiva, che purtroppo è arrivata negli ultimi 2 mesi. Sì. Lei stava bene, quindi dice: se io non l'avessi detto, loro non l'avrebbero mai scoperto. E a quest'ora, appunto, avrebbe il bambino, sarebbe madre, sì, avrebbe il bambino che tanto aspetta. Allora io ti ringrazio per questo racconto, grazie a Noemi Penna, giornalista della Stampa, alla quale auguro una buona giornata. E adesso parliamo di un fenomeno che sta diventando sempre più ampio e che ha avuto un altro esito tragico. È il fenomeno, il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo a Brescia, è un fenomeno che ha portato alla morte di un ragazzino di 16 anni. Un ragazzino di 16 anni che stava giocando con degli amici, probabilmente facendosi dei selfie o facendo una sfida di qualche tipo, a stare sui binari finché non arriva il treno. È stato investito dal treno ed è morto. Era già successo 3 mesi fa nel napoletano, e basta farsi un giro su internet, non se ne trovano molti, qualcuno lo mette nascosto, l'audio è un po' disturbato, però sentite qua. A vedere come sopravvive. Sì, per arrivare all'altra casa vostra. Vieni. Ma chi sei tu? Allora, si sente molto male, si sente molto male, ma è un video che si trova abbastanza facilmente su YouTube e che a qualcuno come me, che è padre di ragazzini di 12, di 10 anni, fa molta impressione. Un ragazzino più o meno di quell'età, 12, 10 anni, che si sdraia su una rotaia per una sorta di esibizione, facendosi riprendere dagli amici. Come si dice, è un fenomeno in crescita, rimane un po' sotto traccia nelle cronache locali. In Veneto ci sono stati molti casi, in altre città. Umberto Lebruto è direttore produzione di Rete Ferroviaria Italiana, che è la parte del gruppo delle Ferrovie dello Stato che cura appunto la rete ferroviaria. Lebruto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come si diceva, un fenomeno in espansione questo qua. È vero, stiamo registrando molti incidenti addirittura mortali. Quelli che ha citato lei nel napoletano e nel bresciano sono esempi per certi versi uguali nell'intensità che hanno avuto: 2 morti, ma poi sono incidenti leggermente diversi per la metodologia. Da una parte nel Bresciano giocavano con la palla e quindi rischiavano fino all'ultimo secondo per andare via, uscire fuori dal binario all'arrivo del treno, dall'altra parte invece erano ragazzi che facevano i selfie col treno in arrivo. È un fenomeno crescente, ma è un fenomeno, l'ha detto lei bene, che non è solo italiano, è un fenomeno mondiale, e nel nord Europa, se uno entra in internet, si rende conto che ci sono dei filmati davvero agghiaccianti. Quindi, devo dire che da questo punto di vista ci stiamo dando molto da fare, soprattutto in termini di polizia. La polizia ferroviaria qualche mese fa è riuscito a sensibilizzare la famiglia di due ragazzi che erano stati intercettati proprio attraverso delle foto che rilasciavano su YouTube, e quindi in un qualche modo la prevenzione da questo punto di vista a volte è efficace e riesce a risolvere il problema. Prevenzione purtroppo che le brutto, però è possibile fino ad un certo punto, cioè il vostro è un sistema aperto per definizione, perché le ferrovie sono dappertutto, i binari sono dappertutto, no? Quindi uno può fare la prevenzione magari a ridosso delle stazioni o cose di questo genere, però ci sono luoghi dove evidentemente non riesce ad arrivare. È proprio così, noi abbiamo 24.000 chilometri di binari su tutta la rete nazionale, quindi da est a ovest, da nord a sud. E i binari corrono nelle città, fuori dalle città, abbiamo recinzioni, le stazioni che comunque sono in un qualche modo recintate, però abbiamo gli attraversamenti, i passaggi a livello, abbiamo il lungolinea fuori dalle stazioni, non possiamo pensare a delle recinzioni lunghe 24 chilometri per tutta la rete. E in ogni caso viviamo anche di fenomeni di rotture di recinzione, scavalcamenti delle recinzioni, quindi la recinzione, ancorché un elemento di mitigazione passivo, alla fine non è efficace al 100% rispetto a questi fenomeni. Ci fossero mai ragazzini all'ascolto o genitori di ragazzini, che cosa consiglierebbe di dire per far capire a costoro quanto è pericoloso questo gioco? Perché insomma il tema è un po', quando senti il rumore del treno ormai è troppo tardi. La cosa da pensare è che quando uno entra sui binari è a rischio di vita in ogni momento, non c'è la possibilità di aspettare un treno ed accorgersi del treno, soprattutto nelle ore notturne ci sono curve, i treni non sempre hanno i fanali accesi e non debbono per necessità averli accesi, i treni quando arrivano sono a ridosso della persona, il vento trascina dietro il rumore, quindi soltanto quando ci arriva addosso il treno ci accorgiamo che il treno sta giungendo. Per cui davvero è un rischio davvero di vita o di morte mettersi in mezzo ai binari a giocare così. È una sorta di roulette russa, è la stessa cosa della roulette russa. E questo è il punto. Io la ringrazio. Grazie ad Umberto Lebruto, direttore produzione di Rete Ferroviaria Italiana, per averci anche aiutato a raccontare questo fenomeno che, come avete sentito, va sempre più diffondendosi. In Italia qualcuno ci scrive, e secondo me è una posizione un po' assurda, qualcuno ci scrive via WhatsApp, dice questa è l'intelligenza media, è una selezione naturale. Forse non si ricorda di quanto eravamo stupidi tutti noi quando eravamo adolescenti. Con tutto il rispetto per gli adolescenti, ce ne sono di straordinariamente intelligenti, ma le scemenze, magari non così gravi, magari non così pesanti, le abbiamo fatte tutti quanti, e qua bisogna fargli capire che ci sono scemenze che non ti uccidono e scemenze che ti uccidono. Ci fermiamo, scusate la banalità, ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo tra un attimo e poi torniamo a Sesto Fiorentino, dove ci sono stati questi scontri tra la comunità cinese e le forze dell'ordine che stavano andando a fare dei controlli, e ne parleremo con una persona che era proprio presente là, era presente sul posto ed è un consigliere comunale di un comune della zona che è cinese a sua volta di origine, cioè di seconda generazione. Pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: c'è stato un nuovo naufragio nel canale di Sicilia, 10 le vittime, molte le donne, nei primi 6 mesi dell'anno sbarchi in linea col 2015, ma 25.000 tra profughi e immigrati accolti in più. Per quanto riguarda la Brexit, è di poco fa la notizia che a sorpresa Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, ha deciso di non candidarsi né alla guida dei Tories né alla guida del paese. Le elezioni non prima del 2020, dice il ministro dell'interno britannico Theresa May. Il giorno di insediamento per le giunte di Sala, Milano e Appendino a Torino, sotto la mole polemiche su un assessore, e Roma ancora in alto mare, c'è uno scontro sul capo di gabinetto scelto dalla Raggi. Quinto mese di fila di deflazione, secondo i dati Istat, scende la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, sale il potere d'acquisto delle famiglie, ma anche la propensione al risparmio. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il prossimo punto che mettiamo sulla nostra mappa, che trovate anche sul sito www.radio24.it, è a Sesto Fiorentino, dove ieri ci sono stati degli scontri tra una parte della comunità cinese e le forze dell'ordine. Da quel che abbiamo capito, ci sono stati dei controlli in un'azienda e c'è stata una reazione, come dire, di questo tipo da parte della comunità cinese. Però per capire un po' meglio come sono andate le cose, abbiamo in linea Angelo Hu, il cui cognome ci dice qualcosa, nel senso che è di origine cinese, anche se è di seconda generazione. Sì, pronto. Sì, sono di seconda generazione. Di seconda generazione, è consigliere comunale a Campi Bisenzio, che è proprio l'accanto, accanto a Sesto Fiorentino, ed è stato là sostanzialmente ieri sera. Immagino che sia ancora in zona lei, no? Tutto sommato. Sì, io abito qui vicino . E stamattina sono anche ripassato per vedere se la situazione era tutto tranquillo. Senta, allora, che cosa è successo ieri? Abbiamo ovviamente la versione delle forze dell'ordine, un'altra versione diversa da parte della comunità cinese. È riuscito a farsi un'idea lei o no? Io personalmente ieri sono stato da entrambe le parti, perché essendo un amministratore sono andato anche dall'altra parte per sentire le ragioni delle forze dell'ordine e le ragioni dei signori dell'ASL. Sono naturalmente andato anche a sentire le ragioni dei tanti cittadini cinesi che ieri sono venuti a protestare, e da quello che io ho capito sulla situazione iniziale è che vi sono stati dei controlli all'interno di un capannone dove sono presenti 21 esercizi. Tra questi sono stati controllati e solo uno è risultato non a norma su un macchinario per cucire, dove mancava una certificazione, e quindi di fatto poi i capannoni erano nuovi e perfettamente a norma con le nuove regole, gli standard di sicurezza. Poi, per quanto riguarda le diverse versioni, da quello che io ho potuto capire, il signore anziano era con la nipote, si trova all'interno del capannone, la nipote di 10 mesi ha cominciato a piangere e ha voluto portare la nipote fuori. Gli agenti che bloccavano l'uscita l'hanno fermato e anche in maniera anche brusca, e ha perso la presa sulla bambina. A quel punto la bambina ha preso un colpo e l'anziano evidentemente da nonno non ci ha più visto dalla rabbia ed è scattata una colluttazione. Ah, okay. Ed è finita che il signore, che ha una certa età, è stato piazzato nel piazzale del capannone sotto il sole e aveva anche delle ferite. E purtroppo da lì è partito tutto. E la cosa che mi rattrista di più è che molti giornali abbiano riportato, sembra che nei loro articoli sia praticamente riportato il bollettino di Carabinieri. È una cosa molto triste per il giornalismo, e anche il fatto di aver scritto che il nonno abbia utilizzato la bambina come uno scudo umano. Io penso che questo sia una presa in giro dell'intelligenza dei lettori dei giornali e delle persone. Senta, allora, questa dunque la versione che conosciamo e che apprendiamo da lei, dopo aver sentito ovviamente quella delle forze dell'ordine. Da là è scattata la tensione, ci sono stati degli scontri veri e propri, una sorta di protesta sostanzialmente è partita, con, come sempre succede, qualche testa più calda che è andata giù più dura, e gente pacifica, succede in tutte le manifestazioni di piazza. Ieri la problematica di ieri è stata che la maggioranza delle persone che abitano e lavorano qui allo Smannora, a Sesto Fiorentino, a Campi Bisenzio, sono nuclei familiari, piccole fabbriche di persone che sono marito e moglie, e raramente vi è la presenza di un dipendente. E quindi sono persone che hanno piccoli margini di guadagno, piccoli imprenditori che si vedono quotidianamente, e giustamente dico io, ci sono i controlli da parte della regione, e vengono, però i controlli ci sono all'interno delle fabbriche, però da quello che loro ogni giorno vivono non ci sono i controlli nelle strade, gli scippi sono quotidiani, ogni giorno le persone, almeno una o due, dormono all'interno di capannoni, non perché ci debbano vivere, ma perché devono controllare affinché non arrivi qualcuno, apri il capannone e rubi cosa c'è dentro, sì. Cioè i macchinari e la pelle. Purtroppo le persone che stanno qui non chiedevano meno Stato ieri, chiedevano più presenza di Stato, sì. Che li tutelasse sempre, non solamente quando c'è da multare e prendere i soldi. Senta, qua abbiamo anche qualche ascoltatore che ci scrive, al 349-238-6666, sia, lo ricordo agli ascoltatori, sia per SMS sia per WhatsApp, che ci dice, qua il problema in realtà è che non vogliono i controlli e per questo scattano le proteste. Ma in realtà non è vero, perché i controlli ormai sono rutinari da 2 anni, le persone sono abituate, cioè le persone che stanno all'interno dei capannoni sono abituate a questi controlli. Io conosco personalmente i vigili e accompagnano gli ispettori dell'ASL e ormai c'è una routine di tutto sì. Questo meccanismo, e non è vero che non vogliono i controlli, è evidente che c'è un malessere, e questo malessere ieri questo fuoco è stato acceso dalla colluttazione del signore, che ha provocato tutto sì. Il resto, e sicuramente quando lo Stato non ha armi nei confronti dei suoi cittadini ed è costretto a manganellare una folla di bambini, bambine e anche persone che sicuramente alcune erano facinorose, però quando lo Stato non ha altre armi se non manganellare i propri cittadini, allora lo Stato e anche noi abbiamo fallito. Sì, poi bisogna vedere, esatto, poi bisogna vedere ovviamente che livello di aggressione hanno sentito di aver subito i poliziotti. Comunque, ultima domanda che le voglio fare, e anche questa arriva da un ascoltatore: ma che ci faceva una bambina di 10 mesi dentro una fabbrica? La bambina di 10 mesi si trovava all'interno della fabbrica perché, secondo la versione del nonno, era lui e la bambina erano a trovare i genitori e stavano lavorando lì. Naturalmente non era il posto consono, e quindi il nonno è voluto uscire dalla fabbrica, e lì è scattato tutto quello che è successo. Questa è la versione delle persone. Poi naturalmente le persone ovviamente possono immaginare tutto quello che vogliono, ma questo è quello che hanno detto questo è quello che hanno raccontato. Andrà tutto ovviamente verificato. Qualche ascoltatore, gliela chiudo là, qualche altro ascoltatore fa notare: questo tipo di controlli è quello che vivono quotidianamente tutte le aziende italiane, magari non sul lavoro nero, ma su altre mille cose, dall'ASL, i vigili che arrivano, eccetera, eccetera. Sì, ma noi siamo perfettamente. Io lavoro con la comunità e lavoro anche con tutti quelli che cercano di aiutare la comunità. Essendo consigliere comunale, mi confronto quotidianamente con i cittadini, sia italiani che di origine cinese. Il problema è che i controlli sono diventati settari ogni 10 giorni, e questa è una radio che va verso gli imprenditori. Io vi immagino voi a lavorare quotidianamente per portare a casa il tozzo di pane, perché queste persone si sta parlando di guadagni minimi. E ogni 10 giorni, ogni 7 giorni, blitz contro blitz, e poi rischi quando esci dal lavoro, quando torni a casa, rischi che il giorno dopo magari hanno totalmente svaligiato la loro attività. Questo è quello che vivono nella quotidianità i cittadini cinesi dello Smannoro. La ringrazio, grazie Angelo Hu, consigliere comunale a Campi Bisenzio di Sinistra Ecologia e Libertà. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.